buona stasera, ti vigiosine proprio come la luna. Sì, sì, c'è sì, sei buona stasera, come ti e mai qua non c'è de nessuna. Sì, sì, c'è sì, sei buona stasera, ti vigiosine proprio come la luna. Sì, sì, c'è sì, sei buona stasera, come ti e mai qua non c'è de nessuna. Senti la prima stella che la sera vostra brilla, lo primo raggio è sulle cala mane sempre brilla. Sento la piantina cammina scintilla, quando sei foto l'alta l'accendino, quando ti vedo il cuore mio sempre sempre, quando state innanzi batte sempre più forte, queste delusioni stasse aprono le porte, tutte di cura penso e qui ruca sento. Allora sì, sì, c'è stai buona stasera, ti vedo sino proprio come la luna. Sì, sì, c'è stai buona stasera, come ti e moia qua non c'è più nessuna. L'apro d'emozione che approvai la prima sera, l'apro d'emozione che approvai lo primo giorno, yeah. Quando manca notte riesci a dormo, quando stia con te viene il siauro me servia, se con l'amici poi in giro me ne scia, yeah. Lo pensiero mio sempre a ti e ritornava ogni cosa che tenia per via valore, forse di via, forse era l'amore. Allora sì, sì, c'è stai buona stasera, te vigiosine proprio come la luna. Sì, sì, c'è stai buona stasera, come ti e mo qua non c'è de nessuno. Te la giudetta e c'hanna dentro il gambe piaci, legno e te zicco e te mino quattro baci, non te preoccupare c'è lo teno cameria, camo arrivata l'ora con te faccio mia. Ehi, lo cuore me batte forte, me batte sempre più forte, quando te mino le mani cadie me dici me ami, se grano feeling con te, l'amore che mi da te, la voglio te zicco, te bacio, te braccio, voglio stau con te, ca quando mi pizzi che ti è così sempre me piaci, io te stringo l'anca ne facimo più capaci, non servono le parole con te dico che mi piaci, ca basta te guardo in ciallocchi e saggio subito c'è poi faccia. Allora sì, sì, c'è stai buona stasera, ti vigiosine proprio come la luna. Sì, sì, c'è stai buona stasera, come ti e moi a qua non c'è più nessuna. Ti porterei con me in un posto dove c'è solo musica reggae, cantere per te tutta la notte, senti il mio cuore come mi batte forte. Sei la stella che questa notte brilla in questo cielo pieno di nebbia, sei la stella che porterei con me, sei la stella che stai buona stasera, te vigiosine proprio come la luna. Sì, sì, c'è stai buona stasera, come ti e moia qua non c'è più nessuna. E te ripeto che a me piaci come ride e come parli, che a me sento più sincero e puro vero te costi a te, in questa vita io te chiudi, quando stiamo soli noi quando te bacio, quando te braccio io mi sento sempre vero, il cuore mi batte sempre più forte, quando te mino le mani io mi dici mi ami, se creano fili con te, l'amore che a me dai te, cavo io te zico, te bacio, te braccio, voglio stau con te. Allora sì, sì, c'è stai buona stasera, te vigiosine proprio come la luna. Sì, sì, c'è stai buona stasera, come ti e moia qua non c'è de nessuna.